Der Herr Corsini war sehr viel fleißiger als ich. Der hat eine richtige Einführung vorbereitet, was ich mir erspart habe, auch weil ich meine, dass eine Einführung genügt und dass wir dann gleich zum Hauptvortrag übergehen. Aber so werden wir also jetzt zunächst von Herrn Corsini eine Gesamteinführung ins Thema halten. Il professor Corsini farà una introduzione generale all'argomento del seminario. Sia pur brevemente mi cercherò di rendere conto in questi piccoli, con questi piccoli appunti che mi sono fatto del tema e di alcune questioni connesse da un punto di vista della storiografia connesse con il tema stesso. Con questa settimana di studi e col tema che essa ha per oggetto, questo nostro istituto tocca un periodo che nel corso degli altri seminari non era mai stato ancora posto in esame. Come è stato ricordato dal Presidente, si è iniziato 10 anni fa, per quanto riguarda la storia più moderna e contemporanea, con un seminario sull'illuminismo. Si è poi analizzato il cattolicesimo politico e sociale in Italia e in Germania nella seconda metà del secolo scorso, nei primi anni di questo secolo. La stessa cosa è stata fatta per il movimento operaio e socialista. Poi è stato preso in esame il liberalismo dal 1848 alla prima guerra mondiale e con la trattazione del tema del nazionalismo si è chiuso il ciclo dedicato ai grandi filoni politici della seconda metà del secolo scorso e dei primissimi anni di questo secolo. Il periodo tra le rivoluzioni, quella francese col suo connesso momento napoleonico e quella europea del 1848, viene ora posto in esame e in discussione. Di esso il seminario vuole affrontare un tema essenziale, quello della correlazione e vicendevole influsso di istituzioni e ideologie, influsso reversibile di ideologie e di istituzioni. Di qui la presenza di storici del diritto accanto agli storici delle idee, delle dottrine e degli eventi. Per quanto riguarda il piano articolato della settimana di studi, diremo che è stato delineato in modo che il tema sia affrontato in 2 relazioni generali, per l'Italia e la Germania, e in 3 binari di relazioni parallele corrispondenti alle 3 correnti ideologiche nelle quali si possono raggruppare, però con una necessaria ma non sempre adeguata schematizzazione, perché la realtà è più varia e più frastagliata, nelle quali si possono raggruppare le resistenze conservatrici e le spinte innovatrici del periodo. Nella relazione Ghisalberti, nelle relazioni Ghisalberti e Weiss, l'una ha per titolo Le istituzioni e le idee, l'altra Die Auswirkungen der französischen Revolution und des Empire auf Deutschland, si vedrà dunque quanto in consenso o in dissenso i modelli di organizzazione politica e giuridica provenienti dalla rivoluzione francese e dall'epoca napoleonica, che costituiscono il termine a quo dell'analisi, siano stati recepiti in Italia e in Germania e se l'ideologia politica che ne era la base di origine rivoluzionaria abbia avuto nei 2 paesi un accoglimento e uno sviluppo parallelo e omodirezionale. Logicamente si pongono poi le relazioni abbinate per tema, correnti conservatrici di Ara e conservative Strömungen di Bussmann, il moderatismo di Talamo, assente per infermità, mandiamo a lui vivi auguri di pronto ristabilimento della sua salute, parlerà in sua sostituzione il professor La Salvia, e Der Deutsche Liberalismus di Fenske, che non è nuovo ai nostri lavori perché è stato qui 4 anni fa a fare la relazione sull'Assemblea Costituente di Monaco durante il seminario sul liberalismo. E il movimento di Francoforte. E il movimento democratico in Italia, dal congresso di Vienna alla Repubblica Romana di Frankovic e di Democratische Bewegungen in Mitteleuropa di Reinalter. Il seminario si disnoda dunque nei suoi lavori su linee parallele, non comparative, salvo gli occasionali e necessari utili riferimenti alla realtà dell'uno e dell'altro paese. Ma la sintesi di confronto del diverso e di accertamento del comune uscirà ugualmente dal quadro d'insieme offerto dal complesso delle relazioni. In questa prospettiva di lavoro e di deduzioni saranno particolarmente preziosi, e sono qui sollecitati, gli interventi e i contributi dei giovani studiosi che partecipano come borsisti al seminario ed anche ovviamente dei professori ospiti. Tutti concorreranno ad apportare al quadro d'insieme quelle accentuazioni del comune e del diverso che caratterizzano il periodo in Germania e in Italia. L'abbinamento dei due paesi, Italia e Germania, non è di maniera, fatto per corrispondere alla natura di questo istituto storico italo-germanico, ma ha una sua propria ragione d'essere, che cercheremo succintamente di indicare. Innanzitutto, Italia e Germania hanno provato le più specifiche influenze del periodo rivoluzionario e napoleonico, sia attraverso l'occupazione diretta del loro territorio, sia attraverso l'istituzione in nesso di stati e regimi di chiara ed evidente dipendenza dal modello francese. Nel periodo tra le rivoluzioni, poi, Italia e Germania, con la monarchia degli Asburgo, restarono inserite nel sistema metternichiano e ne rappresentarono l'area in cui esso ebbe la sua più duratura applicazione nel campo delle istituzioni e nello sviluppo di correnti culturali. Tralasciando infatti di parlare della Russia, l'Inghilterra da questo sistema metternichiano ne era fuori del tutto, la Francia lo era fuori a metà, onde quel sistema, per quanto attiene alla politica interna degli Stati, trovò dai governi prima piena attuazione nei due mondi culturali italiano e germanico, ove le istituzioni, rinnovate parzialmente o totalmente dopo il crollo napoleonico sul modello pre-rivoluzionario, resistettero più a lungo sino alla primavera del 48. Del sistema metternichiano, sotto lo stimolo della passione patriottica e dell'idea di nazione, la storiografia ha visto e quasi esclusivamente accentuato l'aspetto di predominio dell'Austria in Europa, un sistema di equilibrio territoriale tra gli Stati che consentiva a Vienna di esercitare direttamente o indirettamente una funzione di guida nel quadro europeo. E certamente esso ebbe anche questo ruolo. Ma quando si ebbe modo di allontanarsi dai moduli e dai parametri della storiografia di stampo tradizionalista risorgimentale, si venne via via riconoscendo che il sistema non si esauriva in ciò, né poteva essere ridotto alla conservazione del solo equilibrio internazionale, ma che nasceva da una scelta politica globale di un tipo di società ritenuta ottimale in contrapposizione all'individualismo liberale e all'ugualitarismo democratico. Aveva cioè, comunque si valuti e si giudichi, una sua filosofia. Alla ricerca e conservazione dell'equilibrio tra gli Stati si accompagnano così quelle dell'equilibrio negli Stati, con la restaurazione dei rapporti, quali erano precedentemente alla rivoluzione, tra i ceti e individui tra di loro da una parte e il potere politico dall'altra. Se non si limita a una pura strumentalità utile ai ceti privilegiati, ritornati alla dirigenza della società europea, l'insistenza costante, ripetuta, propria di tutto il periodo tra le rivoluzioni, sulla crucciosa scelta che si imponeva tra ordine e libertà, stabilità e disordine, stati di legittimità storica e di legittimità nazionale, anche la corrente conservatrice cesserà di apparire poco più di una retroguardia difensiva di interessi cettuali e di potere, ciò che toccherà poi al liberalismo nei confronti del democraticismo, e sarà vista ed intesa, anche rifiutandola e rifiutata come fu, quale una componente di uguale dignità storica delle altre. Quel sistema fu fortemente incrinato nella sua versione territoriale e come blocco politico di alleanze con gli avvenimenti del 30-31. La Francia, da mezzo dentro che vi era, ne uscì totalmente. Ma quel sistema sociale resistette più a lungo in Italia con i suoi antichi stati e il Lombardo-Veneto, nella Confederazione Germanica con i suoi stati storici e nella monarchia asburgica. All'interno di quest'area, però, Italia e Germania assumono ben presto una posizione parallela che ha in comune una maggiore vivacità delle correnti innovatrici rispetto al terzo partner del sistema, l'Austria, sollecitate nella loro opposizione a Vienna anche dalle aspirazioni all'unità e all'indipendenza nazionale. Non è che si conoscano molto per quanto attiene ai rispettivi problemi politici Italia e Germania in questo periodo tra le rivoluzioni, ma imparano a conoscersi. E qui il riferimento alle Römische Briefe del von Reumann del 1944 e agli italiani Zustände del Mittermeier dello stesso anno è quasi d'obbligo. Come lo è d'obbligo il richiamo all'entusiasmo che suscitò in Italia dopo il 1933 l'ascesa dello Zollverein, in cui si intravedeva, oltre che l'applicazione delle dottrine liberali nel campo dell'economia, anche la via più lunga, ma allora l'unica possibile, per fare dei passi avanti verso l'unificazione nazionale. Non v'era rispetto all'area di operatività dell'Unione Doganale unità di scelte né in Germania né in Italia. Il List l'avrebbe vista più favorevolmente espandersi verso il Belgio e l'Olanda, ma il Reumann e il Mittermeier consideravano l'Italia un campo di intima intesa e di scambi fraterni. E in Italia, tra Piemonte e Lombardia, si presentano pesanti divergenze tra il gravitare anche con la rete ferroviaria verso la Germania attraverso la Svizzera o verso la Mitteleuropa degli Asburgo. E quando il Gualterio, nel 50-51, appena usciti dal periodo tra le rivoluzioni, ricorderà l'opera del Petiti, delle strade ferrate italiane e del miglior ordinamento di esse, che è del 45, dirà che fu un fatto politico, tutto che nel libro non sembrasse di politica esservi apparenza. Che la questione dello Zollverein tedesco e le sue eventuali connessioni con l'Italia fosse un fatto politico oltre che economico, fu avvertito ovviamente con preoccupazione dal Metternich. Uno Zollverein italo-austriaco con il suo centro a Trieste avrebbe potuto essere un rimedio a quel più stretto parallelismo di situazioni che si profilava tra Germania e Italia all'interno dell'area nella quale, anche dopo il 30-31, ripeto, resisteva il sistema metternichiano. Ideologie, istituzioni e strutture economiche sono investite dalla eredità della grande rivoluzione e del bonapartismo. Come affrontare quell'eredità che aveva lasciato vigorosi fermenti nel campo della cultura, delle istituzioni politiche, amministrative e dell'economia? Furono problemi che si imposero dalle cose e che gravarono su tutti gli uomini di governo, intellettuali, borghesia economica e, sia pure con altra sensibilità e motivazioni, le classi popolari. L'assetto politico-territoriale per l'Europa post-napoleonica era stato raggiunto in effetti abbastanza facilmente. L'intesa tra le potenze vincitrici era stata trovata al tavolo delle trattative tra uomini che si sentivano in diritto e ne avevano la forza di disporre a volontà dei territori. Ma l'altro assetto, quello politico-sociale, che si concreta nelle istituzioni giuridico-amministrative e dal quale dipende la stabilità e l'equilibrio interno agli Stati, non si poté né si poteva fissare sulla carta come i confini territoriali. La restaurazione dei modelli pre-rivoluzionari e pre-napoleonici avrebbe avuto bisogno o del consenso o della passività dei sudditi. Consenso e passività che non si ebbero e che non furono ottenuti e garantiti neppure dall'immenso e minuzioso apparato di disciplinamento sociale e di controllo delle idee e della loro circolazione posto in essere nelle università, nelle scuole, coi libri di testo e i catechismi, con la censura preventiva e repressiva delle opere a stampa e della stampa periodica. Non vado al di là dei 20 minuti. L'eredità della grande rivoluzione dell'89 si poteva anche tentare di negare e respingere tout court su un piano dottrinale e in una visione teologica morale, facendo perno sui doveri di sudditanza ai vertici immanenti e trascendenti della storia, i sovrani e Dio. Una lettura, lo dico così per curiosità, ma per il lavoro al quale attendo, una lettura dei commenti al quarto e al settimo comandamento, i due riguardanti l'obbedienza e la proprietà, fatti nei catechismi per il popolo tra il 15 e il 48, risulterebbe grandemente significativa. Così, da un esame delle pronunce degli organi ed uffici di censura, appare chiaro che il divieto di pubblicazione o di commercio di libri o stampe periodiche discendeva non solo dal fatto che in esse fossero presi di mira uomini con idee contrarie ai governi e all'assetto territoriale dell'Europa, ma molto spesso, se non più, per la presenza di idee tendenti ad intaccare l'assetto sociale restaurato e il principio assolutistico della separazione di dignità e di diritti tra signori e sudditi e della subalternanza dei secondi ai primi. C'è indubbiamente dell'utilitarismo di classe, ma in quella lotta ad oltranza contro gli eredi della rivoluzione, liberali, democratici, radicali e, dopo il 31, vero anche comunisti, c'è anche una carica ideologica che giunge a toni mistici e messianici di redenzione della società e dell'individuo. Nei confronti dell'eredità napoleonica, legata a quella della rivoluzione, perché ne era stata il seguito, ma per molti aspetti ne era stata anche la negazione, l'atteggiamento dei governi e dei circoli politici fu diverso. In parte essa fu utilizzata per quegli aspetti di razionalizzazione dell'amministrazione pubblica che la normativa napoleonica aveva introdotto e per quel tanto di centralismo che risultava di comodo ai regimi assolutistici per contenere le spinte autonomistiche regionali e locali e uniformare le strutture amministrative e di governo. In parte l'eredità napoleonica fu una componente rilevante, sia pure in senso inversamente direzionale, del pensiero nazionale unitario, in Germania come esperienza di dominazione straniera che aveva sollevato gli animi alla lotta di liberazione, in Italia lasciando il ricordo della formazione di uno Stato unitario che aveva almeno l'apparenza dell'indipendenza. Con riguardo alla periodizzazione, parlare di periodo tra le rivoluzioni potrebbe sembrare inadeguato e impreciso per indicare quello tra gli anni 15-48. In quei 33 anni, infatti, l'Europa era stata percorsa da due ondate rivoluzionarie, quella del 20 e 21, in Spagna e in Italia, preceduta da forti agitazioni in Germania, specialmente nelle università, per ottenere dai sovrani la concessione delle costituzioni, e quella del 30-31 in Francia, Belgio, Italia e Polonia, nelle quali accanto alle istanze costituzionali si pongono quelle nazionali. Eppure, per l'Italia e la Germania, parlare di periodo tra le rivoluzioni può essere esatto non solo con riguardo alla contemporanea fine rivoluzionaria del 48, che si manifesta anche in Austria, Ungheria, Boemia e in altri paesi, ma anche e specialmente con riguardo agli aspetti comuni della situazione culturale e istituzionale e del perdurare del clima della rivoluzione. Luigi Bolferetti, in un suo saggio che è ben conosciuto e merita di esserlo, è ormai ritenuto uno dei saggi classici sul tema, ritiene che se si pone attenzione al conflitto tra le opposte ideologie e tendenze politiche, il periodo della restaurazione in Italia sia da prolungarsi sino al 48-49, tesi che Giorgio Candeloro giudica discutibile, ma non rifiuta in toto, discutibile perché inquadra le correnti ideologiche del risorgimento nella polemica della restaurazione. Ma in effetti il periodo tra le rivoluzioni, tra il 15 e il 48, si sovrappone e si confonde in Italia con quello del risorgimento, della maggior parte del risorgimento, della sua fase di elaborazione dottrinale. I 21 anni successivi al biennio 48-49 sino al 70 vedono infatti prevalere le questioni diplomatiche e militari per l'unificazione territoriale della nazione. Quella sovrapposizione è la ragione per cui la storiografia del periodo tra le rivoluzioni in Italia è assimilata con quella della storiografia del risorgimento e disarticolata per singoli antichi stati, come lo era allora la situazione politico-territoriale della penisola. La bibliografia relativa, lo dico così a titolo di contributo indicativo, va anch'essa ricercata perciò nella bibliografia dell'età del risorgimento, Per essa esiste la grande opera in quattro volumi con questo preciso titolo, uscita in onore di Alberto Maria Ghisalberti, padre del nostro relatore Carlo Ghisalberti, qui presente. L'opera è di 10 anni fa, ma è ancora validissima. Aggiungerò poi che alla restaurazione in Italia, con il sottotitolo di Strutture e Ideologie, è stato dedicato il 47° congresso dell'Istituto di Storia del Risorgimento, i cui atti sono stati pubblicati non recentissimamente, ma risalgono al 1976. Per quanto concerne la bibliografia sulle istituzioni, essa si trova anche nella bibliografia dell'età del Risorgimento a cura di Acquarone. Ma per continuare a parlare del termine al quale si può spingere il periodo della Restaurazione, dirò che anche Carlo Ghisalberti, ponendo attenzione agli aspetti e al campo delle istituzioni, colloca la vera fine della Restaurazione in Italia nel 1847, col tramonto della soluzione mediana tra assolutismo e costituzionalismo, quella delle Consulte e, così egli dice, del mito delle Consulte. Non mi arrischio a fare dei paragoni con il mondo tedesco, ma se penso alla conferenza del 1834, la conferenza dei ministri a Vienna, ero sotto la guida del Metternich, e al contenuto di quella decisione, che poi venne diffuso e divulgato durante la rivoluzione del 48 in Germania, proprio con il titolo di Metternich System, cioè la continuazione del sistema del Metternich con la riproduzione di tutto il testo di questa Geheime, va bene, la risoluzione, vero? Ecco, mi pare che qualche cosa di simile a quanto è stato osservato per l'Italia, ma su questo, ripeto, io esprimo un giudizio, va bene, vero, poi sentiremo, va bene, vero, quanto corrisponde al vero dagli amici tedeschi, però mi pare che il periodo possa essere anche per la Germania prorogato, quello della Restaurazione, fino al 1848. Salvemini scrisse che una rivoluzione è già matura nelle coscienze quando si manifesta nei fatti. Non è solo uno scatenamento di violenza, è soprattutto il risultato di un intenso sforzo di pensiero e di un vasto rinnovamento morale. Ciò può essere detto anche per le rivoluzioni del 48 e per il periodo che le preparò. Esso ha una propria identità e unitarietà storica, anche se nel momento rivoluzionario si articolò in forme diverse corrispondenti alla preminenza di singoli problemi e questioni propri dei vari paesi. All'Italia mancò una costituente. Se si fa eccezione per quella di altissimo valore morale, per quella romana, limitata nel tempo e pressata dai problemi della difesa di Roma, dove però si era pur giunti a proclamare la decadenza del potere temporale e la Repubblica. Più ampi e approfonditi i lavori sulla Costituente di Francoforte e su quella di Vienna-Kremsi, esse, ma specialmente la prima, rappresentano a mio avviso il momento in cui l'intenso sforzo di pensiero e il vasto rinnovamento morale del periodo preparatorio si manifesta e si concreta nei dibattiti e nei progetti di Costituzione. Alla Costituente di Francoforte la storiografia italiana non ha dedicato molta attenzione. Dopo qualche cenno coevolo di Pellegrino Rossi del 48, del Perez del 49 o qualcuno successivo di poco, del Gardoletti nel 57, del Cavalotti nel 60, gli studi italiani sono rari e di poca ampiezza. Ed è una grossa lacuna sul momento conclusivo del periodo tra le rivoluzioni, in cui si misurarono le tre correnti ideologiche nelle quali si disnodava non solo il pensiero politico tedesco ma europeo. Sarà stata quella di Francoforte un'assemblea di professori e dottrinari, come penso è stata negativamente qualificata, e non avrà saputo sciogliere i nodi dei rapporti del Bund con Vienna e Berlino. Ma i suoi dibattiti sui Grundrechte, sulla libertà della persona, sul rapporto Stato-Chiesa, la scuola, l'economia, i diritti sociali, il lavoro, l'emigrazione restano pur sempre di grande altezza e significato, e le tre correnti ideologiche del lungo periodo preparatorio si erano ivi travasate e si erano comparate in quei dibattiti. La costituente viennese restò attanagliata dalla questione della struttura da darsi a quel singolare Stato che era la monarchia asburgica. Eppure dal nulla in cui fu posta tutta la sua opera, qualcosa di importantissimo si salvò: l'abrogazione dei pesi feudali sulla terra, evento che va rapportato anch'esso all'eredità della Rivoluzione francese e dell'incidenza e all'incidenza delle correnti innovatrici. Abbiamo fatto cenno alle costituenti, e qui termino, perché esse sono il punto di arrivo e di confluenza del periodo tra le rivoluzioni, quasi l'ora della verità nel misurarsi reciproco delle tre correnti ideologiche. Che poi il loro lavoro sia stato ignorato dal potere politico negli anni immediatamente successivi conta sul piano dei fatti, non su quello dei valori spirituali. Una sintesi comparativa delle idee era stata fatta. Il mio compito, credo si esaurisca qui, quello di introdurre le relazioni, gli interventi e i dibattiti del seminario, e mi scuso se ho rubato qualche po' di tempo ai colleghi relatori e borsisti, lieto se avrò detto qualche cosa che non è condiviso, perché questo sarà motivo di entrare nelle discussioni. Ich bemühe mich ganz kurz einige Hauptgedanken zusammenzufassen. Entschuldigen Sie, wenn viele Einzelheiten ausfallen, schon aus Gründen der Zeit. Außerdem hatte ich nur ein kleines Zettelchen und der Vortrag ist länger gewesen, als ich gedacht hatte. Also, Herr Corsini hat zunächst daran erinnert, dass in dieses Seminar ein Thema behandelt, welches hier in diesen ganzen 10 Jahren noch nicht behandelt worden ist. Er hat es hineingestellt in die bisherigen Unternehmungen des Instituts und hat daran erinnert, dass die Seminare zur neuen Geschichte sowohl die Aufklärung behandelt haben, wie dann die großen politischen Strömungen des 19. Jahrhunderts, beginnend mit dem politischen Katholizismus, der hier in Trient eine besondere Heimstatt hatte, dann den Sozialismus, den Liberalismus und den Nationalismus. Und dass es hier jetzt nun darum geht, die Zeit zu bearbeiten, zu diskutieren, in denen sich die Ideologien und die Institutionen herausgebildet haben, die dann für das 19. Jahrhundert wesentlich geblieben sind. Er hat dann den Plan des Seminars erläutert, dass dieses Seminar von 2 Grundlagenreferaten ausgehen wird und danach eben dann für die beiden Länder vergleichend die 3 großen politischen Ausrichtungen behandeln. Und ist dann auf das eigentliche Thema des Seminars eingegangen und hat versucht, also einen Gesamtquadro generale der Situation zwischen 1815 und 1848 zu erstellen, hat versucht, die verschiedenen Strömungen zusammenfassend darzustellen. Er ist davon ausgegangen, dass eben Italien und Deutschland am direktesten von Frankreich beeinflusst gewesen sind, sowohl weil sie territorial verändert worden sind, wie auch weil die neuen politischen Ideen, die sowohl von der Revolution wie vom napoleonischen Frankreich ausgegangen sind, in Italien und Deutschland von Frankreich auferlegt, am direktesten realisiert wurden. Und er hat dann dagegen gehalten, dass eben auch das Metternich-System nirgendwo so fest realisiert worden ist, wie in Italien und Deutschland, ja, dass eigentlich diese beiden Länder die einzigen gewesen sind, die komplett zum Metternich-System gehört haben. Er sprach von der österreichischen Vorherrschaft. Das ist ein Punkt, über den man dann diskutieren könnte, ob nämlich Österreich in Deutschland eine so führende Rolle gehabt hat wie in Italien. Das wäre also ein erster Punkt, wo wir nicht ganz einer Meinung sind. Und er hat dann gesagt, dass dieses Metternich-System die Erhaltung des Gleichgewichtes zwischen den Staaten und in den Staaten zur Aufgabe hatte, dass die historische Legitimität wiederhergestellt wurde, dass jedoch sich dieser historischen Legitimität im Laufe dieser unserer Periode eine neue nationale Legitimität gegenüberstellte und dass es 1830 eben zur ersten großen Bedrohung des Systems gekommen ist, dass aber ausgerechnet in Italien und in Deutschland das System diese Bedrohung überstanden hat, dass das System, das Metternich-System eben erhalten geblieben ist, dass jedoch in beiden Ländern seitdem die liberalen Kräfte stärker geworden sind. Und in dem Zusammenhang war von gegenseitigen Beeinflussungen die Rede, wirtschaftlicher Art, Zollverein, der ja zugleich eine politische Dimension hatte, Eisenbahnbau oder von den Kontakten, die einige Deutsche wie Raimond und Mittermeier damals nun zu toskanischen, italienischen Moderati angeknüpft haben. Es beginnt ja da tatsächlich die politische gegenseitige Beeinflussung der beiden Länder, die dann weitergewirkt hat. Er hat dann betont, dass sowohl die Institutionen wie die Ideologien weithin mitgenährt, miterfüllt waren von revolutionären und napoleonischen Ideen. Und er hat daran erinnert, dass die Restauration darauf angewiesen war, entweder Konsens zu finden oder doch ruhige Hinnahme. Und er meint, dass weder das eine noch das andere zustande gekommen sei. Man konnte zwar versuchen, die Revolution zu leugnen, man konnte in Katechismen für das Volk den Gehorsam gegenüber der Obrigkeit geradezu als göttliches Gebot herausstellen, man konnte Bücher verbieten, aber die Ideen der Revolution waren nicht zu töten, sie wirkten gerade nach 1830 weiter, und nach 1830 kam eben zu der liberalen auch stärker als zuvor die demokratische Tendenz, zugleich auch sozial-utopische Tendenzen. Von den Reaktionen der Regierungen auf das System, auf die Bedrohung des Systems, wurden vor allen Dingen der Rationalismus und der Zentralismus herausgestellt, und dann wurde daran erinnert, dass die in der beginnenden Nationalbewegung die Reaktion der Italiener und der Deutschen auf die französische Zeit verschieden gewesen ist. Ein altes Thema, was uns ja schon oft beschäftigt hat, dass eben für die Deutschen aus der französischen Zeit der Charakter der Fremdherrschaft und dann mit einer abzulehnenden Größe sehr viel stärker war, während in Italien die Erinnerung an die Vorstufen nationaler Einheit sehr viel lebendiger geblieben waren. Im Schlussteil hat er sich dann damit befasst, bis wann denn das Restaurationszeitalter gedauert hätte. Und da hat er an verschiedene italienische Historiker erinnert, Luigi Bulferetti, der davon ausgeht, dass die Restaurationszeit bis 48 dauert, an Candeloro, der dieses Diktum diskutiert. Und er hat dann daran erinnert, dass die Zeit der Restauration, genommen von 1815 bis 1848 in Italien, ja auch die Zeit des Risorgimento war, dass nämlich in der Auseinandersetzung mit dem restaurativen Staatensystem die Ideen des Risorgimento ausgebildet worden sind, dass also die ideologische Ausformung der italienischen Nationalbewegung sich über die faktische Geschichte der Restauration gelegt und dass eben aus dieser geistigen Ausformung des Risorgimento dann eben die Revolution von 1848 erwachsen ist. In dem Zusammenhang wurden noch einige Bücher und Bibliografien erwähnt. Es wurde auch unser Freund Gisalbert, nicht nur sein Vater, sondern auch er selber erwähnt, mit seinem Versuch, das Restaurationszeitalter mit 1847 enden zu lassen, als die Kompromisse, als die letzten Versuche von Kompromissen zwischen der alten Monarchie und bloßen beratenden Körperschaften gescheitert seien. Und damit wurde dann zum Schluss noch einmal die Frage von 1848 angeschnitten, wobei hervorgehoben wurde, dass zwar das Metternich-System gehalten hat, dass aber eben, wie Salvemini betont, die Revolution in den Gedanken und in den Ideen heranreifte und dass dann eben 1848 der große Ankunftspunkt gewesen ist, wo es um die Realisierung aller dieser Ideen gegangen ist. Vergleich der Frage nach einer verfassungsgebenden Versammlung, die ja in Italien nur in der Römischen Republik zustande gekommen ist, während von Frankfurt für Deutschland ausführlich von Frankfurt und von Wien und Kremsier gesprochen wurde. Und er meinte eben abschließend, dass sich gerade in Frankfurt eben auch für Deutschland diese Parallelität herausgestellt hätte, dass nämlich das gesamte Ideenmaterial, die politischen Ideen, die zu einer liberalen Neuordnung hätten führen können, dort in Frankfurt nun auf dem Tisch gelegen, diskutiert und formuliert worden sind. Und er schloss mit der vielleicht idealistischen Beurteilung, dass eben die geistigen Werte und Ideen, die dort in Frankfurt, aber auch im selben Jahr in Italien proklamiert worden sind, dass die das eigentlich Neue bedeuten und das Wesentliche in dem Geschichtsverlauf, auch wenn die Faktengeschichte dann nicht sofort sich nach diesen Ideen entwickelt hat. Da also die Einführung von Herrn Corsini so gut war, brauche ich also wirklich nur noch wenig zu sagen. Ich bin darüber sehr froh. Ich möchte nur zwei, drei Gedanken noch hervorheben, die wir vielleicht noch mit in die Diskussion einbringen könnten. Und da möchte ich erstens betonen, ich hoffe, dass Herr Weiß mir recht gibt oder mich heftig kritisiert, dass trotz der Restauration in Deutschland ja doch sehr viel Neues aus der französischen, aus der napoleonischen Zeit erhalten geblieben ist. Dass also dieses Restaurationszeitalter in Deutschland doch ein doppeltes Gesicht hatte. Dass zwar die Großstaaten Österreich und Preußen mehr oder minder zum alten Regime zurückkehrten, dass aber doch in den Staaten der Rheinbund-Ära, der früheren Rheinbund-Ära, der Konstitutionalismus voll erhalten geblieben ist und dass man also die ewigen Teilungen Deutschlands, die ja wohl irgendwo zu unserer Geschichte gehören, für die Zeit nach 1815 auch bereichern könnte, um die Teilung in ein vorkonstitutionelles und ein konstitutionelles Deutschland im Westen, Südwesten und Süden. Und dass die Zäsuren von 1830-31, auch wenn sie sonst wenig erbracht haben, doch in Deutschland eine geringfügige Ausdehnung dieses Konstitutionalismus erbracht haben. Also das Zeitalter der Restauration ist eben zugleich für Deutschland das Zeitalter des frühen Konstitutionalismus, den es ja in dieser Form im damaligen Italien nicht gegeben hat. Damit wäre man an dem zweiten Punkt, den ich nur kurz in Erwägung bringen möchte. Der Wiener Kongress hat bekanntlich für Italien und Deutschland der Idee nach parallele Ordnungen geschaffen. Aber in der Praxis sahen ja diese Ordnungen doch weithin anders aus. Und zu dieser Praxis gehörte eben auch, dass Österreich im Deutschen Bund, obwohl es dessen Präsidialmacht war, keineswegs so mächtig war, wie es als Führungsmacht des Lombardo-Veneto in Italien war, mit den Sekundogenituren noch hinzu. Und dass ja Österreich und Metternich diesen Konstitutionalismus nicht hat verhindern können. Und dass außerdem der Deutsche Bund, daran sollte man vielleicht immer wieder erinnern, wenn die deutsche Frage diskutiert wird, dass der Deutsche Bund eben eine defensive Friedensorganisation war, dass der Deutsche Bund Europas Mitte friedlich organisiert und noch einmal friedlich defensiv zusammengefasst hat und dass dieser Deutsche Bund auch in Fortsetzung des Alten Reiches das mehr oder minder friedliche Zusammenleben auch verschiedener Nationen ermöglicht hat. Der Irredentismus ist ja eine spätere Entwicklung. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat der Deutsche Bund als Friedensmacht wohl voll funktioniert. Und dann darf man vielleicht noch daran, möchte ich vielleicht noch daran erinnern, dass die italienische Neuordnung von 1815 in gewisser Weise auch Teil der deutschen Neuordnung war, insofern nämlich als der neue Kräfteausgleich, das neue Gleichgewicht, welches auf dem Wiener Kongress gefunden war, etwa zwischen Preußen und Österreich, Österreichs Stellung in Italien notwendig machte und mit einschloss. Bei den Kompensationen, die von allen Seiten geführt worden waren, war die italienische Landverteilung irgendwie Mitbestandteil des Kräfteverhältnisses unter den deutschen Staaten. Und deswegen waren auch alle deutschen Staaten, auch Preußen, lange daran interessiert, dass die italienische Ordnung von 1814-15 erhalten blieb. Vielleicht noch eine Einzelheit, über die dann vielleicht der Herr Altgeld uns noch mehr sagen will, weil er das aus seinen Forschungen jetzt ja auswendig kennt, gerade etwa die habsburgische Sekundogenitur in der Toskana, die wurde also als sehr wichtig erachtet, die wurde geradezu als ein weiterer teils deutscher Staat, als eine deutsch-italienische Symbiose betrachtet und man erblickte gerade in der Toskana das Modell eines eventuellen moderaten, kontinuierlichen, friedlichen Fortschritts. Aber das sind nur so einige ganz wenige Anmerkungen, mit denen ich mich an dieser Stelle begnügen möchte. Ich verweise noch darauf, dass für Deutschland in der großen Verfassungsgeschichte von Ernst Rudolf Huber ja der Begriff der Restauration und eben auch die Begrenzung der Restauration sehr gut, vielleicht abschließend geklärt sind. Restauration bedeutete eben durchaus nicht die Wiederherstellung alles dessen, was vor 1789 oder 1803 oder 1806 bestanden hatte. Es war letztlich eine maßvolle Restauration, welche die politische Ordnung Deutschlands gegenüber den Zuständen des Alten Reiches ganz wesentlich modernisiert hat. Aber darüber werden wir in Einzelheiten ja reden. Volevo solo aggiungere alcune osservazioni. Non voglio fare una introduzione così completa come l'ha fatto il collega Corsini. Vorrei ricordare al fatto che nonostante la tendenza restauratrice, almeno in Germania, sono rimasti vivi molti elementi nuovi che anche nell'ordine del congresso di Vienna della Costituzione della Confederazione Germanica è per esempio rimasto in vigore il costituzionalismo così come si era formato negli stati della Confederazione Renana sotto la guida napoleonica. Si potrebbe dire che la Germania, cioè la Confederazione tedesca del 15, era divisa in due tipi di stati. I grandi stati, Austria e Prussia, erano rimasti precostituzionali, però accanto a questo ancien régime esisteva un vero costituzionalismo che seguiva l'esempio francese, così che con tutte le divisioni che la storia tedesca ha vissuto si potrebbe parlare di questo periodo della divisione in stati precostituzionali e costituzionali. Poi bisogna forse ricordare che nonostante il piano di Metternich di creare cioè un ordine parallelo per Italia e Germania, le situazioni erano anche diverse, già per il semplice fatto che l'Austria non ha mai avuto in Germania un ruolo così predominante come in Italia. L'Austria aveva la presidenza, sì, della Confederazione Germanica, però non era mai così potente come era di fatto con il Lombardo-Veneto e con gli stati delle secondogeniture in Italia. La Confederazione Germanica era e doveva essere un sistema di equilibrio, e qui bisogna aggiungere, l'ho dimenticato nel testo tedesco, che c'era soprattutto equilibrio tra Austria e Prussia, e finché c'era questo equilibrio il sistema funzionava. Fino al 48 più o meno. Das Gleichgewicht war vor allen Dingen ein Gleichgewicht zwischen Österreich und Preußen. Und solange dieses Gleichgewicht bestand, hat der Deutsche Bund funktioniert. La Confederazione Germanica, ultimamente trattata da Bussmann nel Handbuch der europäischen Geschichte, come sistema di equilibrio, di pace e di conservazione della pace. E ultimamente ho accennato al fatto che l'ordine italiano, cioè anche wie sagt man, die Verschiebung dell'Austria, parziale trasferimento dell'Austria in Italia faceva parte integrante del sistema di equilibrio tra le potenze tedesche, in modo che tutte le potenze tedesche, anche la Prussia, speravano che questo sistema italiano durasse proprio perché faceva parte del nuovo equilibrio. Ma questo sono soltanto pochissime e brevi osservazioni. Si potrebbe aggiungere come ultima che per la Germania anche l'anno 1840 con la crisi renana è un momento di crisi e di cambiamento. Während also für Italien man 1821, 1830, 1831 als große Zäsuren unseres Zeitalters benennen muss, muss man für Deutschland, wo die Prozesse langsamer laufen, wir sind ja eine besonders verspätete Nation, 2021 wegstreichen. 1830 ist eine erste Veränderung, die allerdings in den faktischen Verhältnissen wenig bewirkt hat. Und 1840 durch die Rheinkrise, durch die Thronbesteigung Friedrich Wilhelms IV., auch durch das inzwischen herangereifte liberale Denken und durch den großen kirchenpolitischen Konflikt, man kommt immer an die Anfänge zurück, gibt es eben noch um 1840 eine neue Situation, sodass dann in den 40er Jahren bei uns, wenn ich recht sehe, dieser Ausreifungsprozess der liberalen Ideen stattfindet, auch in Österreich wohl sehr stark in den 40er Jahren, der in Italien schon seit 1830 im Gange ist. Aber damit können wir vielleicht diese einleitenden Überlegungen beenden und können nur noch einen Punkt erledigen, den wir vorher vergessen haben. Es wäre nämlich ganz gut, wenn alle Stipendiaten sich nunmehr noch, bevor wir in die Pause gehen, mit ganz kurzen Worten vorstellten, damit man so ungefähr weiß, wer mit wem zu tun hat. Und das ist ja nur eine kurze Formalität. Und danach machen wir eben eine Viertelstunde Pause und dann beginnt der Vortrag von Herrn Ghisalberti.